I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. È tempo di bilanci per alcuni dei settori più importanti nel nostro Made in Italy. Ieri è stata la volta dei calzaturieri, ma anche del sistema della moda, del tessile e dell'abbigliamento. Oggi toccherà al sistema dell'industria alimentare italiano. Ma sempre oggi il premier Matteo Renzi incontrerà il premier russo Vladimir Putin nella sua visita ufficiale all'Expo di Milano per la giornata dedicata alla Russia. Uno potrebbe dire: cosa c'entra il Made in Italy, che presenta i suoi bilanci in questi giorni, con la visita di Putin all'Expo? Beh, non è certo in questo appuntamento che andremo a commentare le ragioni politiche dell'embargo americano e europeo alla Russia e del conseguente controimbargo della Russia a molti prodotti europei. Quello che però deve essere chiaro è che l'Italia sta pagando tra i paesi europei il prezzo più alto per le sanzioni decise contro Mosca. Rappresentiamo da sempre il terzo paese nell'interscambio commerciale con la Russia, ma nei settori che abbiamo appena citato siamo al primo, al secondo e al terzo posto, con la beffa, per esempio, che i russi non hanno mai comprato prodotti simili a quelli italiani, il famoso Italian Sounding che distrugge parte del nostro export, per esempio, negli Stati Uniti. Hanno sempre comprato l'originale. Tutti i presidenti delle associazioni che rappresentano i settori di punta del Made in Italy sono concordi nel ricordare una cosa: il mercato russo è un mercato insostituibile. Dovrebbero ricordarselo i nostri governanti e i nostri alleati, Stati Uniti in testa, quando fanno i conti senza l'oste. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione di Uber Pop, decisa a fine maggio dalla sezione imprese dello stesso Tribunale di Milano, per concorrenza sleale verso i taxi. Uber Pop, ricordiamolo, è un'applicazione per smartphone che mette in contatto chi cerca un passaggio e un autista disposto a concederlo. Questi autisti però non devono avere i requisiti né rispettare le regole e gli obblighi richiesti ai taxisti, da qui appunto l'accusa a Uber di concorrenza sleale. Entro oggi, quindi, la multinazionale americana dovrà disattivare l'applicazione Uber Pop. La vicenda poi proseguirà nelle aule dei tribunali, visto che Uber ha presentato anche reclamo nel merito e nelle prossime settimane si svolgerà l'udienza. Al di là della battaglia legale, però, va detto che nei giorni scorsi l'autorità per la regolazione dei trasporti è intervenuta sul tema della mobilità delle persone con una proposta che, se da un lato mira al riconoscimento delle piattaforme tipo Uber, però alla condizione che siano introdotti obblighi e paletti, dall'altro lato punta all'allargamento dell'attività dei taxi, per esempio eliminando quei vincoli che oggi frenano l'attività e la crescita dei taxisti. Quello dell'autorità è un invito a intervenire rivolto al governo e al Parlamento, ma in fondo è anche un modo per provare a uscire dalle contrapposizioni attuali e ragionare su come l'evoluzione delle tecnologie possa essere utilizzata sia per migliorare i servizi sia per ampliare i possibili mercati, con vantaggi per tutti, per gli utenti e per gli operatori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.